tempo soffia forte come il vento. Viene il buio presto, è facile sparire. Liberati da queste mille catene, soffocano ogni tua emozione. Ascolta il respiro di queste parole verso i ribelli contro il padrone. Via, ma non è finita e guardo avanti, nuvole sporcano ancora il mio riflesso, perso nell'oscuro della notte. Stanco di aspettare, è giunto il tempo di cambiare. Liberati